Ho capito, sì, no, ma va bene, dai. Stai usando il baracchino adesso. Il baracchino, quello piccolino, di poche watt, là, diciamo. Mi ha sentito un attimo giù. Sì, mandamela. Io sto usando lo stesso baracchino, 2 watt nemmeno, anche scarsi. È un vecchio baracchino che avevo conservato, l'ho messo sotto oggi, e a vedere se funziona ancora, già funziona. Poi altri me ne sono disfatto, due non ce li ho più, li ho fatti fuori, insomma, ecco. Vabbè, avanti 5. Via, ne approfitto, rimango in quell'X, dai, che devo spiegare un po' di cose. Ci sentiamo giù, dai. Ciao Riccardino, ciao Giulio, alle migliori, dai, che mi assento. Ok, un attimo il fischio. D'accordo Manuel, ci sentiamo, alle prossime, ciao. Fate sentire comunque, o qua o al 23, lo stesso. Ci sentiamo. Avanti il fischio, chi è? E beh, lo fischio adesso? Sì, adesso la guardo, dai. Aspetta che c'è uno che stava fischiando, che mi sembrava un canarino, mi sembrava. Avanti il canarino. Non ci arriva il radio. Sei un canarino muto, tu sei un canarino muto, non ci arrivi qua il radio. Sì, mi ha spaventato. Ecco, sì, avevo toccato il mitino e mi ero già spaventato, detto, ma allora adesso lo richiudo e ce l'ho qua alla postazione al posto dell'altra radio, che la tengo un po' in osservazione. Papà, Giulio, ci sei ancora? Ma adesso verrai messo il coperchio? Sì, adesso è chiuso, la stavo per dare, poi ho detto, ma la tengo un attimino, così la provo un po' e poi calo. Sì, perché è cambiato qualcosa? È cambiata molto la radio. Adesso ho aumentato un po' la radio, va meglio? Non capivo di niente, scusa Fabrizio. Ho toccato il micchino, vediamo di regolarlo, come mi senti ora? No, sempre male, sembra quando sei a casa. Non è possibile, appena più. Come, sembra che ti esce male? Sono io che mi sto sbagliando, se la mia radio, che... perché io ci sento male, la radio. Sì, ci sono, ciao Fabri, sì, stai uscendo male la radio, Fabri, non è chiara. Non è possibile, non ce la faccio più, non è questo che c'è un attimo. Sei fortissimo, però la radio non è per niente chiara, è tutta confusa, guarda. Aspetta, c'è il meeting, aspetta che basta, adesso mi devi dire, devo regolare un attimino il meeting, com'è ora? Ha migliorato un tantino, ma niente di più però, diciamo che è sempre, intanto è molto cupa, molto colposa, dunque non è chiara, ecco, insomma. Aspetta, adesso è sempre brutta? Adesso ha migliorato un bel po', insomma. Però non è proprio quella radio bella, perfetta che deve essere, è sempre molto cupa, forse il microfono che è un po' troppo cupo, non lo so, ha una modulazione, non è nemmeno effetto cattedrale, assolutamente, è proprio forte, robusto, wow, così mi... Allora dobbiamo alzare un po' il Mickey Game, un attimino, allora, abbassiamo un po' a te. Ok, voglio dire, perché io devo un attimino regolare, allora vedere un attimino, adesso come ti sembra Giulio, il basso ne deve avere bassi, perché è così questa radio. Ok, adesso, sì, vabbè, adesso ha migliorato, adesso che hai abbassato un po' la potenza, ha migliorato, diciamo, abbastanza, però non è proprio perfetta come dovrebbe essere, comunque ha migliorato moltissimo rispetto a prima. Allora, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, adesso dovrebbe andare bene? Sì, adesso direi che è accettabilissima, così sì, così io la sento bene, poi non lo so, vediamo come la sente Riccardino, io così la sento bene, vai Riccardo. Sì, ha migliorato un po', però è un passaggio che... Come si guarda un attimino, sto sollevando leggermente il mic gain, dimmi se ho sbagliato o è un po' più forte. È un po' più forte però forse. È strano, aspetta. Processore, da processore, no, ma era anche così prima, non è che ho toccato niente, sono messi i cofani. Sì, si sente il rumore che è attorno, o Fabio, non so se hai qualche altra cosa attaccata, però si sente molto il rumore ambiente, diciamo, dai, definiamolo così. Però la radio già è migliorata, dai. Non è perfettissima, ma è migliorata. Vabbè, vento, le stelle le senti sempre, così se stacco il processore probabilmente senti meno vento all'intorno, ma c'è un sacco di roba accesa, eh? Così va benissimo, più bassa, d'accordo, quello che vuoi, però così è chiara, qui così è bella, così io la sento molto bene, chiara. Avanti Rica, come la senti tu? Sì, adesso è più bassa, però è molto più chiara la modulazione. Dov'è che ho visto? Ah, no, il mio era faceva quella. Non ho voglia di togliere il cofano. Ma poco fa però Riccardi in questa maniera. Ecco, così però vedete, così però mi avvicino, abbasso un po' il mic gain. Ecco qua. Però probabilmente, vabbè, lei c'è le ventole che senti, quello è normale se attacchi il processore. Per quello? Io riesco a capire, magari qui sentiamo qualche di un altro, perché poco fa ero così uguale, non è che ho cambiato niente? No, stavi uscendo più chiaro, è troppo alto il mic gain. Il nome è arrivato col cucumane di Natalino, ciao Natalino. Ciao Natalino, ho abbassato un po' il mic gain, come ti sembra? Abbassa ancora. Perché stavi uscendo benissimo, la prima volta che sei entrato stavi uscendo alla grande proprio. Vedi, chiaro. Ascolta, adesso ho abbassato il mic gain ancora, come ti sembra? Lascia stare così che va bene, perché andavi a strapparmi. Ecco, ho abbassato leggermente, probabilmente c'era il mic gain un po' troppo alto. In questa maniera come ti sembra, Natalia? Così è perfetta. Riccardi, ti piace adesso? Così va molto meglio. Va bene, dai, allora devi tenere il mic gain ancora più basso. E magari aumentare un po' la potenza, aumentato un po' la potenza. Però sei sempre chiaro, non gli fa nulla. Capito? Sta uscendo bene adesso. E come deve uscire? Mi sentite? Perfetto, ciao Luca, grazie Natali, perfetto. Avanti Luca. Sì, allora, sto provando baracchino da 25, com'è? Va bene? Sì, che va bene Luca. Sì, va bene Luca, anche troppo forte, già va bene comunque. Microfono normale, là, non è citofonico il microfono. Ok, no, va bene. Va bene. Comunque ciao Fabrizio, ciao Giulio, Riccardino, Natalino, poi non so chi c'è. Fabrizio è cena, c'è Fabrizio che sta facendo delle prove. Sì, ho salutato a Fabrizio anche, vabbè, là. Comunque sta arrivando forte Fabri, anche qua. Dai, meglio così, così se la tengo un po' sotto osservazione e poi Riccardi te la faccio avere. È tutto. Dopo tanto chissà che ci lascia in pace. Lascialo sempre così, Fabri, perché così va benissimo, va veramente bene così, una bella radio pulita e senza tutto il macello che c'era dietro, va benissimo. E intorno a uno va lasciata, ho capito, intorno a uno è il mic gain. Sì, certo, come la mia radio, se si è scorso, se io la tiro su un pochino e comincio a strappare. Va bene, molto bene, così va bene, anche la potenza è ultima perché adesso stai arrivando intorno ai 9 più 15, per cui va più che bene qua. No, sì, così poi, adesso per Riccardino questa notizia, adesso così Riccardi, non c'è più quel QRM che avevi sempre Santiago 9-9-10 di questi QRM, dai, se te l'ho eliminato e in più non hai più quegli splatter, te l'ho spiegato come usare quell'interruttore, quando vuoi sei qua lo metti in quella posizione, poi se ti sposti di canale, se non c'è nessun altro lo lasci così, se c'è nessun altro tac, e tu ricevi solamente senza filtro, però ricevi e non prendi splatter, capito? È molto selettiva adesso. Hai un po' di lavoretti, già li hai visti un po' di immagini, questa roba va bene, speriamo bene, dai. Anche se ti calenta, se è bellina, quando la vedi poi non la riconosci, no? Dopo la stava confondendo. Infatti quella lì io te l'ho restituita perché così la usi, adesso come ti do questa, poi me la restituisci. Stavo pensando, ma ero Roberto, era già chiuso, se no gliel'avrei portata, però all'inizio in questi giorni, ci sentiamo lunedì, così la tengo qua, tu usi la mia e poi ti do questa, io continuo a usarla e speriamo bene. Sì, vediamo. Va bene. Sì, così va benissimo. Va benissimo, Fabri, così. Un po' di grattacapi te l'ha data con la radio, però sembra che hai risolto il problema, dai. Beh, lo so, purtroppo queste radio ti fanno impazzire alle volte. Magari ci sono delle cose che dei difetti che si nascondono, tra virgolette. Per cui una persona perde la testa, ma è normale che tu hai tanta pazienza e arrivi sempre a risolvere il problema. Sono contento per te, Fabri, e non solo per te, anche per gli amici che appunto fai lavori. Certo, va benissimo così. Avanti, Natali. Giulio, a me stavi chiamando che ero lontano. No, ti ho rilanciato e basta, mi sei considerato che eri entrato, che non ti avevo ancora salutato, ti ho solo rilanciato, tutto lì. Ok, no, è perché stavo accudendo al cagnolino, capito? E non ero vicino alla radio, adesso mi sono seduto e non mi sento bene, non giù. No, sempre il problema della gamba, Natali, sempre quello il problema? No, altro problema. Io tutti i giorni ce n'è una, perché io l'ho sempre detto, Natali, bisognava rimanere sempre col vigore fisico di quando uno ha 20 anni, anche se vai avanti con l'età, però ci dovevamo mantenere il vigore fisico di 20 anni, di quando avevamo 20 anni. Purtroppo è così, e vabbè, lasciamo stare, fate anche quello, Natali, non ti preoccupare. Vero, Fabri? Lo so, anche io sto iniziando a avere un po' di anni in più. Normale, dai, normale, è importante invecchiare bene. Certo, è quello che conta. Cosa posso dire io allora? Che sono vicinissimo agli 80, 78 per l'esattezza, per cui, però, grazie a Dio già il problema che avevo l'ho risolto, almeno spero di averlo risolto per sempre. Poi naturalmente dovrò stare sempre sotto controllo, però questa è un'altra cosa interessante, non avere il problema che avevo prima. Avanti, Riccardi. Tu non hai bisogno di Giulia, sei giovane, non ti preoccupare, hai tutti begli anni da vivere. Tu fate il conto, quanti anni ti vinco io? Mi sembra 65 anni, più o meno. E cosa vorresti? Sono più grande di tuo padre, anche di molti anni, Riccardi. E cosa vuol dire? Sì, io ho 20 anni più, sicché 21, anzi per l'esattezza, sicché ti puoi immaginare, non è che sono poi tanti, no? Quando io stavo già incominciando ad essere vecchio, tuo padre stava appena nascendo, penso un po'. Vecchio tra virgolette, perché a 20 anni non si può essere vecchi, anzi nemmeno a 80 anni si può essere vecchi, basta non pensarci. Avanti, Fabri. Così è, dai, vi lascio che vado a mangiare io, che mi ha chiamato mia moglie, ci sentiamo dopo. Ciao Fabri, buon pranzo. Grazie a tutti, a dopo. Ok Fabri, ciao, buon pranzo anche a te, ci sentiamo più in là se coincide. Avanti, Natali. E cappa. Oh, iaia. E la vecchiaia carrogna giù, carrogna. Purtroppo anche la vecchiaia bisogna vivere nel migliore dei modi, se è possibile. Interessante è avere sempre buona salute, poi l'età non conta, pazienza, se non possiamo più fare 100 metri in 10-12 secondi vuol dire li faremo in 30 secondi, ma è interessante fare lo stesso. Non ti sembra che sia così, Natalia? Ma a me la salute che manca, neanche in 30 secondi riesco a farli 100 metri, è già tanto che riesco a camminare, un po' e non tanto. Vabbè, bisogna avere fiducia e soprattutto non preoccuparsi più di tanto, anche se uno ha i problemi, ma se poi uno si abbatte, addio. Se si lascia andare è ancora peggio. Ma mi sembra che c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, chi era? Volevo salutare a Fabrizio Monacalli da Bonacalli. Ok, mi fa un pochino, anch'io lascio perché è già l'una e un quarto circa, per cui il pranzo incombe. Per così dire, pertanto bisogna abbandonare il microfono e io devo percorrere un piano sotto per poter andare in tavernetta per poter andare a pranzo. Va bene, dai, avanti Natalia, riprendi ancora qualche passaggino, poi dopodiché dopo chiudere per forza, vai. Sì, anch'io sto chiudendo, devo andare a pranzo, ci sentiamo alle prossime, saluto a te, a Riccardino e a chi altri ci fosse in ascolto, dai, faccio QRT, ci sentiamo alle prossime se coincide. Ok Natalia, sto usando 2 watt, anche di meno di 2 watt, 1,5, 1,7, bravo, una cosa del genere, così mi sta dando il wattmetro. Per cui, ma comunque, cioè, se mi stai rispondendo vuol dire che mi senti bene, non è il caso di mettere un'altra radio per avere più potenza, va bene così. Bene, bene, ciao Natalino, allora buon pranzo anche a te e anch'io adesso chiudo, dai. Saluto a Riccardino e dopodiché ascolto Pinolino per poi appunto andare verso il piatto che mi attende. Ciao Riccardino, salutoni e buon pranzo anche a te. A stasera se coincide, ciao di nuovo Natalia, alle prossime. Vai Ricca. Ah sì, perché ce l'avevo, mi mandato la foto sul tablet all'altro numero, sì, ma l'ho vista, è vero, è un vintage, è bellino, dai, no, non c'è che dire, va bene, fu interessante sentirsi, Riccardi, poi non è un problema, già tu sei in un'ottima posizione, per cui qui mi stai arrivando abbastanza bene. Adesso in questo momento mi stavi arrivando Santiago 8, modulati 9, 5, una cosa del genere, per cui più o meno abbiamo lo stesso segnale all'incirca, quello che mi hai dato poc'anzi tu nei miei confronti. Va bene, dai. Di nuovo buon pranzo a tutti e due, ciao Riccardo, ciao Natalino, chiudo, ascolto finale, chiudo, vai Natà. Ciao Giù, ciao, alle prossime, ciao Riccardi, buon pranzo. Ciao Natalino, ciao Giulio, come ho detto, vediamo se c'è ancora Luca. Comunque, volevo dire Giulio, perché ci sono quelli che prendono tipo 800 watt per farti ascoltare, per parlare, noi ci ascoltiamo con, stiamo parlando con 2 watt. E vatte così li lasciamo a chi fa attività radioamatoriale, no, non ICB, è pazzesco utilizzare tutti i vatte così per non per nessuna ragione, tra l'altro, non è il caso assolutamente, non è assolutamente il caso, oltre al fatto che non si possono utilizzare, per cui è meglio stare sempre alle regole, tranquillo e pacifico e riusciamo ad ascoltarci, perché quello che conta è sempre l'antenna. Uno quando ha l'antenna performante, anche se ha un baracchinetto da 4 soldi o meglio da 4 euro, si fa sentire un po' dappertutto, per cui va bene così. Tu non pensare mai a queste cose. Quando uno farà attività radioamatoriale, allora il discorso è diverso, intanto perché ha l'autorizzazione per utilizzare una certa potenza e poi perché è tutta un'altra frequenza ed è alle volte necessario utilizzarle anche. Va bene, ti saluto di nuovo, ciao Riccardino, alle prossime, ciao di nuovo Natalino, chiudo, ciao, vai Ricca. Ciao Riccardino.